Saggio del profitto e formula erronea, escludere operaio da un prodotto. Saggio del profitto e formula erronea, escludere operaio dal prodotto. Falsa apparenza di un rapporto associativo tra capitalista e operaio. Falsa apparenza di un rapporto associativo tra capitalista e operaio. Il capitale disporre del lavoro altrui.